stringe nella mano. È la notte già. Non un uomo ma uno spirito, guardo ora il tuo occhio. Nella notte già. È tornato qui tra i vivi per riprendersi il suo teschio. Ma uno scalpo che gli pende dalla mano. È la notte gialla. La testa è quella del presidente americano. È la notte gialla. Nipote di quel Prescott che profanò la fossa. Nella notte gialla. E che rubò il cranio del grande Pelle Rossa. Come fuma silenzioso va al suo passato. La lepre non si spegnerà. Sarà vento che sul suo collo soffierà. Sarà tuono quando colpirà. L'uomo bianco usando la tua testa. È la notte gialla. Come poggia piedi nella sua macabra festa. È la notte gialla. Ma il suo potente esercito che il mondo fa tremare. Nella notte gialla. La furia di Geronimo non riuscirà a fermare. Come fuma è silenzioso.